in primo piano. Buongiorno, buona domenica, buon primo novembre da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi, come potete immaginare, sono tutti concentrati sulla possibilità che ci sia un imminente nuovo DPCM e, come è successo un po' settimana scorsa, siccome il testo non c'è, ci sono solo delle ipotesi, ci sono pagine e pagine e pagine di approfondimenti, pochi punti fermi. Il Sole 24 Ore è l'unico giornale che ha un'apertura diversa, perché c'è un piano per la fusione tra le due grandi banche italiane, la seconda e la terza, MPS e Unicredit. Piano per la fusione, la dote per le nozze vale 5 miliardi. In prima pagina anche un'analisi di Roberto Dalimonte a due giorni e mezzo dal voto americano, gli stati in bilico decisivi nel voto. Avete sentito i dati sull'Iowa, che in questo momento vede il presidente Trump in vantaggio, e poi però ci sono anche una serie di altri stati dove la situazione è ancora poco chiara: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, North Carolina, Ohio, Arizona, Nevada, Georgia e Texas. Il voto e l'America cambiata per sempre. Molto interessante l'analisi per quanto riguarda il Covid di Marcello Minenna, che ipotizza che questa sia un'occasione per integrare la sanità dell'Unione Europea. Sappiamo che ci sono alcune cose, come naturalmente per esempio i sistemi fiscali, che sono ancora molto diversi tra un paese e l'altro. Lo stesso vale per la sanità, e questa mi sembra una lettura interessante di quello che si può imparare da questa crisi del Covid. Crisi naturalmente prima sanitaria e poi economica e sociale. Corriere della Sera, stop ai movimenti tra regioni, eccoci con una delle tante ipotesi. I governatori definiranno le zone rosse, decisivi indice di contagio e tenuta degli ospedali. Il Corriere della Sera, forse anche perché il suo editore Urbano Cairo è stato ricoverato perché non solo positivo al Covid, ma anche mostrava anche alcuni sintomi, ha poi rassicurato su Instagram che sta bene, anche avvertendo di non sottovalutare il Covid. Comunque, forse anche per questo, il Corriere della Sera è il quotidiano che ha più pagine dedicate al Covid, oltre 12. In prima pagina però, come potete immaginare, e anche questo vale per la maggior parte dei giornali, una foto di Sean Connery scomparso ieri a 90 anni. Sean Connery, l'attore che non fu solo Bond, e ci sono poi numerosi articoli, i principali sono quelli dei due principali critici cinematografici del Corriere della Sera, Paolo Merghetti e Maurizio Porro. Maurizio Porro in realtà è anche critico teatrale, e appunto raccontano questa figura di Sean Connery. La Repubblica, ospedali restano 20 giorni. Il governo, se i ricoveri non calano, sanità a rischio collasso. E poi naturalmente i dati, i semplici numeri sui contagi di ieri e i morti: contagi 31.758 e quasi 300 morti. E si ipotizza appunto già per domani altro DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lockdown locali, stop a spostamenti tra regioni, quindi questa ipotesi pare la più accreditata. Come sempre i due editoriali della domenica, quello del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, la modernità invecchiata troppo presto, e Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, che si occupa invece delle elezioni americane, Trump-Biden e l'America da ricostruire. Per quanto riguarda Sean Connery, anche in questo caso quattro articoli, uno di Natalia Aspesi, quell'eroe del come eravamo, e poi un articolo di Antonio Monda, critico letterario ma anche cinematografico, e tanti altri ancora. Tra l'altro Ursula Andress, che è stata una delle prime Bond Girl in uno dei 7 film che Sean Connery ha interpretato come James Bond, è stata intervistata praticamente da tutti i quotidiani. Lei ha 84 anni, ma naturalmente racconta e ricorda quell'esperienza sul set con Sean Connery. Con La Repubblica, come ogni domenica, l'Espresso. Questa settimana la copertina è dedicata a Roberto Saviano, che di Repubblica è un frequente collaboratore, o meglio contributore, nel senso che scrive, come si dice in inglese, appunto contributor, scrive spesso per Repubblica, e qui l'Espresso in prima pagina, in copertina, richiama poi un lungo intervento di Roberto Saviano. Vi racconto racconto l'Italia che urla. Basta con la retorica della nostra sanità invidiata nel mondo, con la sinistra gentile e inerte, con l'incapacità di capire la disperazione che non si vede perché non scende in piazza. La Stampa, città chiuse da martedì, il CTS in 3 milioni violano la quarantena, e questo è una notizia, un dato che ha solo La Stampa. Appunto, il fatto, sapete, che quando si risulta positivi o con o senza sintomi bisogna iniziare quella che viene chiamata quarantena fiduciaria. Ecco, in 3 milioni, secondo i dati del Comitato Tecnico Scientifico, questa quarantena non la rispettano. In prima pagina, anche in questo caso, una foto di Sean Connery, il fascino discreto di Sean. E qui l'intervista, oltre che a Ursula Andress, è a Gina Lollobrigida, il suo bacio elegante. Vi segnalo anche dalla prima pagina della Stampa un intervento di Luigi Manconi sulla cannabis terapeutica. Questa settimana so che Alessandro Milana nel suo Uno Nessuno e Cento Milana ha parlato di questo, e torna questo tema della cannabis per chi soffre, che può essere veramente una cura palliativa e soprattutto alleviare il dolore di chi soffre di alcune malattie, per esempio l'artrite reumatoide, che provoca dolori a le articolazioni. E il punto, Luigi Manconi racconta la storia di Walter De Benedetto, che ha 49 anni, da 35 anni soffre di artrite reumatoide, e è uno delle molte persone che ha un giovamento dall'utilizzo della cannabis terapeutica. Sulle elezioni americane interviene Gianni Riotta, l'articolo poi a pagina 11, Trump e Biden, guerra di mondi. Il Messaggero, regioni a rischio, prime chiusure, anche in questo caso foto in prima pagina di Sean Connery, l'ultimo valzer dell'agente Bond, in questa foto è con la seconda moglie Micheline, dalla prima si separò con anche una causa che ho sfogliato i giornali, mi sembra che nessuno ricordi, perché la prima moglie lo accusò anche di violenze. Poi per completare questo quadro, e ripeto, grandissimo attore, grande fascino, paladino della scozzese di origine, paladino dell'indipendenza della Scozia, nonostante poi abbia anche ricevuto una delle più alte onorificenze del Regno Unito, quindi che comprende anche la Scozia, quella di baronetto. E però appunto nessuno parla comunque anche per, forse per motivi generazionali, negli anni delle sue prese di posizione sui rapporti tra uomo e donna. Avvenire, alla ricerca dei rimedi, il governo studia le chiusure, domani la decisione su zone rosse a Milano e Napoli, alta spostamenti tra regioni, elezioni a distanza, in questo caso si ipotizza a partire dalla terza media, poi vedremo se appunto sarà questo il provvedimento per quanto riguarda la scuola all'interno del DPCM. La foto dell'Avvenire non è dedicata a Sean Connery, ma è la foto di una persona che sta votando negli Stati Uniti. Sapete che ci sono due modi per votare in anticipo negli Stati Uniti: da una parte il voto postale e i cosiddetti absentee ballot, e dall'altra i seggi che vengono aperti già prima della data delle elezioni. Quindi questa è la foto di una persona che sta votando appunto in questo modo. Trump-Biden, ecco i 5 punti della sfida, trovate tutto a pagina 4 e 5, e devo dire che di tutti gli articoli che ho letto su questa elezione del 46esimo presidente degli Stati Uniti, queste due pagine dell'Avvenire mi sembrano quelle più interessanti. Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri, che è in edicola, è il più giovane quotidiano che abbiamo in questo momento in Italia, è in edicola dal 14 settembre, come sempre due gli articoli sulla prima pagina, uno del direttore Stefano Feltri, non si governa la pandemia dallo specchietto retrovisore. In sintesi, Stefano Feltri dice per l'ennesima volta che il governo è stato troppo lento nel decidere. E poi la cronaca invece di quello che è successo ieri, Daniela Preziosi, Conte cambia idea, DPCM subito prima di arrivare al lockdown. Il Fatto Quotidiano ha un titolo abbastanza simile, zone rosse, l'ultimo appello alle regioni, In prima pagina anche un altro tema che riguarda il Covid ed è quello dei focolai nelle RSA, nelle residenze per anziani. A Varese, che sapete è una delle città, la Lombardia è la regione con più con il maggior numero di contagi e di morti, e Varese è uno dei focolai di questa seconda ondata, quindi rispetto alla prima ondata, dove sappiamo la situazione più grave fu intorno a Bergamo, adesso per esempio a Varese nell'RSA, spiega il Fatto Quotidiano, colpito il 60% degli ospiti. Il Manifesto, in prima pagina una foto del Duomo di notte, ondata e ritorno. Il virus accelera, ieri oltre 31.000 contagiati, 297 decessi. Il governo verso misure più estreme, oggi girandola di riunioni, domani il nuovo DPCM. Quindi per questo dico che è un po' tutto da prendere con il condizionale, perché questo DPCM, che dovrebbe essere annunciato domani, prenderà forma oggi in tutte queste riunioni che il Manifesto definisce appunto la girandola delle riunioni. In prima pagina, con un ricordo di Antonello Catacchio, che è un giornalista di lunghissimo corso del Manifesto, ma insomma ha lavorato per tanti giornali ed è anche critico cinematografico, quindi a lui affidato l'articolo "Addio all'agente segreto della working class". Perché questo titolo? Perché Sean Connery, ricorda Antonello Catacchio, era figlio di Joe, operaio e camionista, cattolico, nipote di immigranti irlandesi in Scozia, di mamma Elfie, scozzese, protestante, donna delle pulizie. Il giornale, chiuso per incapacità, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, boccia il governo e chiede lockdown nelle città e in Lombardia, stop agli spostamenti fra regioni. Il centrodestra, quindi l'opposizione di centrodestra, che ha risposto all'ipotesi di una cabina di regia, perché ogni altro modo, cioè o un'eventuale commissione o una consultazione del Parlamento, ovviamente richiede tempi più lunghi, quindi l'ipotesi di questa cabina di regia, ma sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini hanno risposto no, è tardi per coinvolgerci. Questo proprio è la terza riga del sommario del giornale. Il centrodestra Conte, cabina di regia, è tardi. Anche in questo caso foto di Sean Connery, l'attore morto 90 anni, si chiamava Connery, Sean Connery. Ci lasciamo invece un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e bentornati a questa rassegna stampa. Ci mancano ancora due prime pagine dei quotidiani italiani, quella di Libero, moriamo di meno, ci ammaliamo di più, praticamente sarà ancora chiusura. La foto in questo caso è dedicata a Silvio Berlusconi, che concede una lunga intervista a Libero, a Pietro Senaldi, che di Libero è condirettore. Il titolo dell'intervista, che trovate poi a pagina 4, "Non saremmo ridotti così se il governo ci avesse ascoltato". In prima pagina anche un impressionante articolo di Antonio Socci, intitolato "Trump ha portato pace e ricchezza, per questo è odiato". Antonio Socci, non so di chi parli, perché non è il presidente Trump di cui lui parla, io non lo conosco, e vi assicuro che ho passato gli ultimi due mesi ad ascoltare i discorsi, gli interventi di Trump. La cosa che mi fa più effetto di questo articolo è che un cattolico, possiamo definirlo ortodosso come Antonio Socci, elogi così un presidente che da una parte è pro-life e non pro-choice, cioè contro l'aborto e non favorevole alla libera scelta delle donne, e contemporaneamente è stato salvato dal Covid utilizzando un farmaco sperimentale che si chiama Regeneron, carissimo, si parla di $100.000 a dose, che lui ha promesso a tutti gli americani malati, una promessa naturalmente che non può essere realizzata, ma soprattutto il Regeneron è fatto con le cellule staminali di feti frutto di aborti selettivi, cioè quelli in cui le donne scelgono di abortire non per esempio ragioni legate a malformazioni del feto. Questo è Donald Trump, oltre a tantissime altre cose, eppure Antonio Socci lo definisce il presidente che ha portato pace e ricchezza. Ricordo anche che Donald Trump ha firmato il più importante accordo di vendita di armi all'Arabia Saudita, e con queste armi l'Arabia Saudita continua, nell'indifferenza generale possiamo dire, a bombardare lo Yemen. Quindi un ritratto veramente, una specie di realtà parallela a quella che dipinge Antonio Socci. La verità, litigano pure per chiuderci in casa, governo allo sbando, pronte anche restrizioni locali. Qui il commento alle imminenti elezioni americane è di Maria Giovanna Maglie, che invece scrive: lo strano cattolico Joe Biden gioca col fuoco del voto dei credenti. Andiamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. Un tema molto interessante di cui ci siamo occupati tanto al Sole 24 Ore è quello delle conseguenze sulle varie filiere, dietro naturalmente alla chiusura della filiera dei ristoranti, dei pub, dei bar, c'è tutta la filiera alimentare, dietro alla chiusura delle fiere c'è tutta una filiera di persone che lavorano per i grandi eventi e soprattutto per gli eventi fieristici. Giovanna Mancini e Isabella Bufacchi, a pagina 4 del Sole 24 Ore, il Covid spinge le fiere a creare un campione nazionale italiano. Fare massa critica tra i principali quartieri espositivi è la strada per risollevarsi dalla crisi attuale. Il settore fieristico, insieme, diciamo, alla filiera del tessile, moda, abbigliamento e a quella del turismo, ma anche a quella dell'alimentare, è tra quelle che ha sofferto di più. Si calcola un calo del 70-80% del fatturato nel 2020 e le previsioni sono negative anche per il 2021. E vi dicevo, per quanto riguarda la Germania, che è un altro paese europeo con un sistema fieristico molto articolato e importante, i big della Germania a caccia di alleati, accordi anche in Italia per crescere sui mercati di Cina e India. Poi, per quanto riguarda, vi dicevo, l'articolo di analisi di quello che potrà succedere il 3 novembre, Riccardo Barlam, che è corrispondente da New York per il Sole 24 Ore: il coronavirus ha travolto i piani economici di Trump, la riforma fiscale ha dato impulso alla crescita, ma il protezionismo ha isolato il paese. Quindi, quando si parla di successi economici di Trump, ricordiamo innanzitutto questi sgravi fiscali mai visti che Joe Biden ha promesso di riportare ai livelli non di presidenti democratici, ma di un presidente come George Bush. Questo lo ha detto ieri. E poi c'è il tema del scollamento tra quello che sta succedendo sui mercati, quindi le borse, e l'economia reale. E poi naturalmente ci sono le guerre commerciali, in particolare con la Cina. A questo proposito, per completezza, ricordiamo che anche Biden sulla Cina ha posizioni abbastanza simili a quelle di Trump, ma fin dall'inizio tutti, anche in Europa, accolsero gli annunci di politica verso la Cina di Trump come anche un giusto riequilibrio delle relazioni economiche tra Cina e il resto del mondo. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche, per la serie A tu per tu, gli incontri della domenica. Lucilla Incorvati ha incontrato Carmen Moretti De Rosa, che è l'imprenditrice dietro l'Albereta di Erbusco, e il titolo molto bello di questo incontro è: alla natura dobbiamo tutto, investire partendo dalla terra. Lusso, secondo questa imprenditrice, vuol dire ritrovare i propri riferimenti lontano da ciò che è effimero. La consueta pagina di Sport e Business la domenica del Sole 24 Ore è dedicato ai conti dei club di Serie A. È l'Atalanta che coinvolge di più i tifosi nei social. E c'è questo tema, naturalmente, che è abbastanza recente, appunto, di non soltanto il coinvolgimento, specie in un periodo in cui il pubblico negli stadi è praticamente assente, questo tema di coinvolgere, mantenere un rapporto con i tifosi anche utilizzando i social. I bergamaschi hanno il rapporto engagement follower più alto in proporzione alla fan base, e questo valorizza il brand. Purtroppo i termini sono questi, sono mutuati dall'inglese ma sono ormai di uso comune. E la Juventus, poi spiega Marcello Frisone in questo articolo, in testa considerando il rapporto tifosi-seguaci con ottime attività di social media marketing. Molto interessante l'analisi di Benedetto Santa Croce, che trovate a pagina 14 del Sole 24 Ore, sul tema delle imposizioni fiscali alle attività culturali. Le regole del fisco non sono compatibili con arte e creatività. L'utilizzo di nuove tecnologie obbliga a ripensare i parametri con cui viene valutato l'apporto dell'autore a un'opera. E anche in questo caso, insomma, la tecnologia, nel caso delle squadre di calcio abbiamo visto i social media, e qui appunto le nuove tecnologie che cambiano tutto. È per questo che si parla giustamente di rivoluzione digitale. La sezione lifestyle della domenica, la copertina di Maria Teresa Manuelli, il tempo dei barattoli, l'arte delle conserve. Una famiglia italiana su quattro è alle prese con marmellate, pelati o passate, ortaggi sott'olio, tradizione e cura con più ingredienti green e ricette esotiche. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'impressionante intervista di Massimo Gaggi. Non credo che Antonio Socci sia in ascolto, ma sicuramente leggi i giornali alla domenica, gliela consiglierei davvero. Questa intervista di Massimo Gaggi al leader delle milizie bianche, che ora avverte, pronti a intervenire ai seggi. Si chiama Chris Hill, questo signore, e Massimo Gaggi lo ha intervistato, viene anche chiamato Blood Agent, ha 46 anni, è il comandante della Georgia Security Force 3%, milizia paramilitare dei 3%ers, il suo nome in codice è Blood Agent, letteralmente agente del sangue, ha un lavoro un po' noioso a Morrow, un sobborgo di Atlanta, all'interno del movimento è criticato da alcuni perché parla troppo, soprattutto in rete, visto che con la stampa americana ha rotto i ponti. Sono stufo di farmi dare del razzista violento, dice, spiegando di essere soltanto interessato a difendere la Costituzione e in particolare il diritto a possedere armi. Sul Covid dice, che sorpresa, che è una montatura. E poi dice, non siamo, molti di noi sono trampiani, ma esistevamo prima di Trump. Leggetela tutta questa intervista, perché in Italia non è concepibile, e direi in Europa, cose come queste, che però negli Stati Uniti esistono e vanno conosciute. Primo, per la facilità, lo sappiamo, con la quale negli Stati Uniti si possono comprare armi, un diritto all'autodifesa sancito dalla Costituzione stessa, e poi perché appunto questo problema latente di razzismo, queste milizie di cui si parla, questa in particolare capeggiata da Chris Hill, è naturalmente di bianchi, solo di bianchi. Sono armati fino ai denti e dicono, per esempio, in questa intervista, dice Chris Hill, credo che i prossimi 45 giorni saranno imbottiti di violenza, ma non partirà da noi. Il riferimento naturalmente è al fatto, lo diciamo ancora una volta, che le elezioni si tengono il 3 novembre, vedremo quanti giorni ci vorranno per capire chi ha vinto, ma poi l'insediamento ufficiale del nuovo presidente avviene nella prima settimana di gennaio, quindi in questo periodo di tempo in molti sono preoccupati per quello che succederà. Abbiamo ricordato, per esempio, nella rassegna stampa internazionale che Walmart, che è la più grande catena della grande distribuzione americana, ha 4.700 punti vendita negli Stati Uniti, toglierà dagli scaffali, a partire in realtà da ieri, le armi. Si potrà continuare a comprarle, ma non saranno più sugli scaffali, per così come misura cautelare. Ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Gli ascoltatori, come sempre, insomma, contestano molto, alcuni ascoltatori che mandano messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, la mia opinione su Trump. Dicono che ho acredine, ce n'è uno che si augura che vinca solo per fare dispetto a me. Io mi chiedo se tutte queste persone, naturalmente qui abbiamo un piccolissimo esempio, ma sono sicura ce ne sono tanti altri, ascoltano i discorsi di Trump, un uomo che ha preso in giro, come si faceva all'asilo, le persone con la sindrome di Down, un uomo che soltanto ieri ha preso in giro una giornalista di Fox perché aveva la mascherina, un uomo che tiene comizi e ne terrà ancora in questi giorni con 2.500-3.500 persone non distanziate, e anche se hanno la mascherina sappiamo che quando si è molto vicini la mascherina è solo un palliativo. Uno studio di alcune università ha dimostrato che in tutti i casi in cui donne Donald Trump ha tenuto questi comizi, ci sono stati dei focolai. E non so, ditemi voi se è una questione di, naturalmente c'è chi loda l'articolo di Antonio Socci, ma ascoltate invece di leggere gli articoli di Antonio Socci o peraltro di Giovanna Maglio, di Federico Rampini, degli giornalisti italiani, sintonizzatevi su Fox News, sulla CNN, su NBC, ascoltate i discorsi di quest'uomo che, lo ricordo ancora una volta, nel 2016 ha avuto 3 milioni e mezzo di voti popolari in meno rispetto a Hillary Clinton. Probabilmente succederà lo stesso anche se vincerà in questa tornata, quindi rappresenta, è stato votato da circa metà degli aventi diritto negli Stati Uniti. Continua a parlare dell'altra metà di americani che non lo hanno votato come di nemici, o con me o contro di me. Ditemi voi se è un modo di governare la più importante democrazia del mondo. Comunque, siccome credo che a queste persone che dicono viva Trump, viva Socci, non importi i fatti, non importi ascoltare, pensano che sia un mio fatto personale, a questo punto io non so che contributo dare a una discussione costruttiva, se non quella appunto di dirvi sintonizzatevi sulle televisioni americane, non per ascoltare i commenti ma per ascoltare le parole di Donald Trump e, se avete voglia, anche quelle di Joe Biden. E con questo passiamo ai supplementi domenicali, e scusatemi se mi infervoro così, ma davvero non è soltanto che sono, appunto, sono tanti tanti giorni che ascolto la fonte diretta sulla quale bisognerebbe farsi un'opinione e non i commenti. E vi assicuro che se lo ascoltate i suoi toni, i suoi modi, i suoi argomenti, naturalmente oltre a quelli che riguardano la pandemia che Trump continua a sottostimare, e vi ricordo che noi, per quanto si possa criticare la nostra sanità, abbiamo tutti diritto a essere curati. Negli Stati Uniti ci sono oltre 30 milioni di persone che non hanno un'assicurazione sanitaria e quindi non hanno diritto e possibilità a essere curati. Ricordiamolo sempre, è che l'unico modo per ora, perché Trump dice di avere un piano ma non l'ha ancora presentato, l'unico modo per garantire a queste persone di avere una cura è l'Affordable Care Act, detto anche Obamacare, che in questo momento è all'esame della Corte Suprema per essere cancellato. La domenica del Sole 24 Ore, il supplemento domenicale, la copertina è dedicata a un articolo di Marcello Barbanera che parla dei grandi restauri e in questo caso della vittoria del simbolo di Brescia, questo capolavoro romano, la vittoria alata che risale al primo secolo d.C., importanti risultati dal recupero del bronzo romano che ora verrà collocato nell'antico Capitolium. Vi segnalo poi un lungo e molto interessante articolo di Gilberto Corbellini, Quando il pericolo stava nel ratto, sul tema delle pandemie, dalla tragedia sanitaria che travolse l'impero ittita alle grandi pesti del Medioevo, alla spagnola di inizi Novecento, un quadro poco confortante della difficoltà dell'uomo a trovare rimedi di fronte alle epidemie. E se ci pensate, in attesa di cure efficaci, in attesa di un vaccino, anche noi, in tutti i paesi naturalmente, stiamo ricorrendo a quello che è forse il rimedio più antico del mondo per una pandemia, cioè il lockdown, l'isolamento. Vi segnalo anche un articolo di Massimo Teodori, grande esperto di questioni americane, Lo strano duello tra Donald e Joe, elezioni presidenziali negli Stati Uniti, 4 saggi mettono a fuoco gli aspetti più interessanti, naturalmente vengono citati tutti e 4, sono tutti tradotti in italiano tranne uno. 4 saggi mettono a fuoco gli aspetti più interessanti e controversi di questa singolare tornata elettorale che vede contrapposti Trump e Biden. E poi una bellissima recensione a un libro di Joseph Ledoux, che è appena stato pubblicato da Raffaello Cortina, che racconta Lunga storia di noi stessi, si intitola Lunga storia di noi stessi, come il cervello è diventato cosciente, la recensione di Paolo Legrenzi, Quel salto verso la coscienza. E poi invece vi cito una lunga recensione di Gianfranco Ravasi a un libro che si intitola Dopo le religioni e l'aldilà, di Brunetto Salvarani, appena pubblicato dalla Terza, Terza, che spiega appunto, indaga il post mortem nelle regioni di Antico Egitto, Mesopotamia e Grecia classica, per arrivare alla Bibbia ebraica e alla tradizione islamica. E a questo proposito non ho avuto tempo di citarlo, ma continua su Libero la serie di interviste appunto sul tema dell'aldilà, della morte, e questa settimana su Libero appunto è Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che spiega, vi spiego come sono l'inferno e il paradiso, sempre appunto tema al di là. La copertina della lettura, come sempre il supplemento del Corriere della Sera, è affidata a un artista, queste settimane è Ariel Cabrera Monteio, e tutte l'approfondimento delle prime 5 pagine è dedicato alla paura, la cura della paura. E poi vi segnalo una bellissima intervista di Stefano Montefiori a Michael Burke, che è l'amministratore delegato di Louis Vuitton. In questa intervista si prende spunto da un'iniziativa di comunicazione di Vuitton, ma in realtà si parla del tema del viaggio e dell'apertura dei confini mentali alla quale a volte appunto possono contribuire i viaggi. Storie di viaggi anche seduti a casa. Il 4 agosto 2021 saranno 200 anni dalla nascita di Louis Vuitton, e il figlio, appunto, il tutto nacque dal figlio di un falegname che percorse 400 km a piedi per cercare fortuna a Parigi, dove la trovò. Oggi Louis Vuitton è uno dei grandi brand globali più riconosciuti. Di stile immaginario parla Michael Burke, il manager che guida questo impero probabilmente perché Louis Vuitton fa parte di LVMH, che è una società quotata che non segmenta tutti i ricavi dei marchi che fanno parte del gruppo, ma appunto la stima è di oltre 10 miliardi per la sola Vuitton. Ultimissima segnalazione per la copertina di Robinson, il supplemento culturale settimanale della Repubblica. Il titolo della copertina è Riprendiamo i sensi, e c'è appunto un'analisi dei sensi visti anche dal punto di vista letterario, esaltati, ridotti o persi, così il virus cambia vista, tatto, udito, gusto e olfatto. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ancora una buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli.